Food Lab. Il cibo del futuro e il futuro del cibo. Di Federico Pedrocchi e Chiara Albicocco. Le alghe sono pericolose, ci sono dentro le morene. Ma figurati, nascoste. Adesso parliamo di alghe che si mangiano, cosa vuoi? Le morene potrebbero essere il cibo del futuro, chi lo sa? Vabbè. E in particolare parliamo di spirulina, pensa che nome buffo che ha? Sembra un personaggio di Walt Disney. Ecco, e lo facciamo con Antonio Ida di Spiru Farm. Benvenuto Antonio. Grazie, un saluto a tutti. Allora, la tua azienda startup si chiama Spiru Farm, che appunto già ci dà un'idea, nel senso che voi coltivate spirulina, però forse è doveroso per tutti sapere che cos'è spirulina. Ecco, allora, spirulina è un cianobatterio. Una microalga, ormai... possiamo definirla in termini un po' più semplici, una microalga, un'alga molto piccola. Sì, sì, è una microalga, volgarmente chiamata microalga o alga verde azzurra. Mm. Quanto micro? È micro in termini di micrometri, se vogliamo. Piccola, piccola, quindi non la vedi praticamente. E no, non è... si deve vedere al microscopio. Ecco, e non è marina, ma è di acqua dolce. Esatto, si trova nei laghi. E come possiamo cibarci di questa spirulina se è così piccolina? Perché si coltiva a livello massivo, una volta raccolta comincia ad avere una sua sostanza. Ad adesso la si trova in forma di pillole, oppure in polvere, oppure in spaghettini. Noi la produciamo in spaghettini. Che si mangia poi condita come una pasta normale? Si può mangiare condita con una pasta normale, si può aggiungere al sugo della pasta. Ok. Ma quindi io le ammassate? La yogurt. Le ammassate sono miliardi e miliardi per fare uno spaghettino. Esatto. Sono tantissime cellule che fanno uno spaghettino. Allora, immaginiamo di venire a trovarvi a Spiru Farm. Che cosa vedremmo? Cioè, come si fa a coltivare un'alga così piccola? Allora, innanzitutto la coltiviamo in una serra, quindi immaginatevi una serra. E poi all'interno di questa serra ci sono delle vasche enormi dove c'è dell'acqua che viene movimentata e quest'acqua la vedreste verde scuro. E anche un po' densa? No, no, non è densa. Non è, è densa. Liquida. È molto non è la mucillagine, diciamo. No, è che vorrei capire com'è che a un certo momento viene fuori il pastone un po' denso dal quale si tirano fuori delle cose solide. Ecco, come la tirate su poi? Poi questa viene filtrata, quindi si concentra questa massa solida e poi viene essiccata. Viene essiccata a una temperatura tale da non far perdere tutte le sostanze nutritive che la spirulina ci regala. Ecco, immagino che se ne debba coltivare una grandissima quantità per poter avere appunto poi dei risultati buoni e poterla utilizzare nel modo in cui ci ha raccontato. Esatto, noi abbiamo un volume d'acqua di 65.000 litri. Quanto viene fuori di massa solida? La produzione è di circa un chilo al giorno. Ah, beh. Però vedi, non è tantissimo, però un chilo al giorno. Però un po' ne è. Ecco, allora veniamo alle proprietà della spirulina. Perché dovremmo mangiare gli spaghettini o appunto aggiungere allo yogurt un po' di polvere di spirulina? Perché è molto ricca. Sì, sì, è ricchissima. Ah, quello che la caratterizza di più sono le proteine, infatti ha il 60-65% di proteine. A paragone, ad esempio, con la carne, ha 3 volte le proteine della carne. A parità di peso è come mangiare 3 bistecche, diciamo. Esatto, a parità di peso è come mangiare 3 bistecche. Scusa Antonio, verrebbe da chiedere, non è troppo o invece va bene? No, no, va bene, va bene. Se tu pensi a una dieta vegetariana, anzi, va anche poco. Certo. Sono proteine vegetali, ok. E poi c'è qualche altra sostanza? Sì, sì, ce ne sono tantissime. Ci sono i fitopigmenti, quelli che si chiamano fitopigmenti, che sono gli antiossidanti, se vogliamo. Ad esempio, un altro paragone che si può fare è con la carota. Mm. Ha 20 volte il beta-carotene della carota. Ah, però. Sì. Però non è arancione. Però non è arancione. Poi, se parliamo di minerali, ha 10 volte il ferro più degli spinaci. Beh, sembra veramente un alimento portentoso, però il sapore almeno quello non sarà buono. Il sapore è una cosa abbastanza strana, perché è un sapore che ricorda vagamente il seme di zucca, però in un altro modo è difficile spiegare, un pochino da provare. Ok, e con la farina ad esempio si possono fare preparazioni varie, quindi aggiungerla ai biscotti, alle torte, allo yogurt, come dicevi. Diciamo che si presta abbastanza in maniera duttile, no? Sì, sì. sì, assolutamente. Ah. Quello che stiamo facendo in azienda è avere collaborazioni per poter fare nuovi prodotti che possono essere i biscotti, possono essere i grissini, piuttosto che abbiamo in programma di fare una birra alla spirulina. Alla spirulina. Quindi, ecco, ma sì. Senti, sotto forma di spaghetto o biscotto, ok, ma se no cos'è che compro? Una polvere? Cosa compro? Sì, compri gli spaghettini che puoi mangiare direttamente col cucchiaino, aggiungerli allo yogurt oppure sciogliere in acqua e berli. Diciamo che in media lo spaghettino ha un centimetro di grandezza. Ah, vabbè. Come se fossero delle piccole pastigline allungate. Sì. Esatto. E l'ultima cosa è come legislazione, come siamo? Cioè si può diffondere il consumo, diciamo, di questo tipo di alga, di microalga? Può essere venduta ovunque? Sì, può essere venduta ovunque. A livello di legislazione c'è già la legislazione per quanto riguarda sia la produzione che la vendita di quest'alga, già dagli anni 70 in realtà. Non si è diffusa perché ci vogliono delle condizioni particolari per farla crescere. Ah, ho capito, è molto difficile la produzione. Esatto. Noi abbiamo cercato di efficientare questo tipo di produzione, soprattutto per quanto riguarda l'inverno, perché uno dei fattori sensibili a cui è molto sensibile l'alga è proprio la temperatura. Alle temperature rigide. Arriviamo a sotto zero, per cui noi abbiamo tentato di sorpassare questa problematica qui. Coltivandola in serra, ho capito. Coltivandola in serra e utilizzando, accoppiando un sistema di riscaldamento a costo zero, perché ci appoggiamo ad un impianto di biogas esistente in azienda da cui traiamo il calore e riscaldiamo durante tutto l'inverno la serra. E biogas prodotto con gli scarti? Biogas è prodotto da sostanze vegetali dell'azienda stessa. Ah, ok, sì. Va bene. Allora ricordiamo Spiru Farm, è il nome della vostra startup. Grazie Antonio Ida e buon lavoro. Grazie, arrivederci. Per oggi è tutto, ci sentiamo presto con Food Lab.